Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. Era il 1962 quando venne posata la prima pietra. Tony Renis cantava Quando. Quasi una canzone profetica, se pensiamo alla Salerno-Reggio Calabria. Da allora ad oggi sono trascorsi 54 anni tra lavori di ammodernamento e cantieri aperti. Ma per la Salerno-Reggio Calabria, forse, dovrebbe essere arrivato il momento della definitiva sistemazione. Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha assicurato che il 22 dicembre prossimo l'Eterna Incompiuta verrà infatti inaugurata. La garanzia su quella data è arrivata anche dalla società che si occupa della gestione e dei lavori di ammodernamento dell'autostrada. L'ANAS ha annunciato infatti che conta di consegnare agli italiani circa 450 chilometri della Salerno-Reggio Calabria con standard autostradali, completa di almeno 4 corsie e senza cantieri permanenti, entro la fine di quest'anno, anticipando di un anno e mezzo i termini contrattuali. Dopo anni di annunci, sarà la volta buona? E soprattutto, sarà previsto un pedaggio per il suo attraversamento oggi gratuito? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. L'ultima barriera è caduta proprio in questi giorni. Stiamo parlando, come avete ascoltato anche dalla nostra scheda iniziale, della Salerno-Reggio Calabria. L'annuncio un po' a sorpresa di questi giorni da parte del presidente del Consiglio Renzi è che quest'opera sarà terminata dopo anni di attesa entro quest'anno, entro il dicembre di quest'anno, e la caduta dell'ultimo lembo di roccia di qualche giorno fa dovrebbe essere foriera appunto di buone notizie su questo fronte, ma ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, Gianni Vittorio Armani, presidente di ANAS. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a tutti quanti. Allora, un'opera tanto attesa, ovviamente la domanda che si fanno tutti è: si riuscirà davvero a rispettare questa scadenza di dicembre? Il presidente del Consiglio ci ha dato un obiettivo sfidante. Noi con l'impresa abbiamo fatto una nuova pianificazione e l'obiettivo vogliamo raggiungerlo. Questo è l'impegno che abbiamo preso qualche giorno fa e l'impegno che vogliamo rispettare. Tra gli utenti, tra i principali utenti della Salerno-Reggio Calabria ci saranno anche gli autotrasportatori, e vi presento anche il nostro secondo ospite, Massimo Bagnoli, presidente di FIAP, una delle più importanti associazioni di categoria del settore. Il tema delle infrastrutture, Bagnoli, è un tema particolarmente caro al mondo dei trasporti in generale, perché su questo poi si basa tutta la sfida dell'evoluzione logistica. Ovviamente, per noi le infrastrutture sono ovviamente basilari per lo svolgimento del nostro lavoro, per renderci competitivi comunque con infrastrutture efficienti anche con i competitor europei. Un tema quindi particolarmente caldo. Presidente Armani, quali saranno le prossime tappe per la, si spera, definitiva conclusione delle opere della Salerno-Reggio Calabria? Noi avremo una tappa fondamentale che sarà all'inizio dell'estate per l'esodo, dove i picchi di traffico ovviamente sono estremamente più alti rispetto all'ordinario su questa viabilità. E su questo cercheremo di consegnare la strada nelle migliori condizioni possibili a tutti gli utenti italiani. E poi ovviamente c'è un piano di rilascio, questa è una strada in esercizio, quindi non ci sarà un'inaugurazione tutta in una, certo, in un'unica soluzione, ma un rilascio complessivo che poi porterà all'ultima inaugurazione a dicembre, dove effettivamente dopo 50 anni per la prima volta avremo una Salerno-Reggio Calabria a 4 corsie dall'inizio alla fine, almeno a 4 corsie. Presidente Armani, c'è un tema che è tornato spesso in passato, su cui forse qualcuno è anche ritornato di recente, che è quello del pagamento del pedaggio, un tema che riguarda sia la Salerno-Reggio Calabria sia il grande raccordo anulare, quindi delle grosse arterie che gestite direttamente come ANAS. Qua è principalmente un tema politico. Decidere se far pagare chi usa specificamente alcune arterie o far pagare nel complesso la rete di infrastrutture che noi creiamo è una scelta di sistema. Io ritengo che la logistica nel complesso del nostro paese debba essere remunerata. Complessivamente noi abbiamo una rete di 25.000 chilometri e non ha senso prevedere che 1.000-2.000 chilometri abbiano una remunerazione e gli altri no. Quindi ci sta dicendo praticamente che c'è una sorta di apertura al discorso del pedaggio? Gli automobilisti hanno una marea di tassazioni che già pagano. Questa tassazione entra nella finanza dello Stato e poi riesce come contributi per le strade. Se noi facciamo direttamente pagare, invece di far pagare le tasse così alte, riduciamo le tasse agli automobilisti e facciamo pagare direttamente le strade come avviene per gli altri servizi, quando si paga l'acqua, quando si paga l'elettricità, il gas, si paga anche la rete. In questo modo si crea un meccanismo più efficiente in cui i consumatori alla fine pagano per quello che utilizzano. Bagnoli, il tema dei pedaggi è un tema particolarmente caro al mondo dell'autotrasporto, perché ogni piccolo incremento di pedaggio per veicoli che percorrono 100-150 mila chilometri l'anno diventa un peso importante. Sono una voce importantissima sui bilanci delle imprese di trasporto, come si potrà immaginare. Noi tutti gli anni rimaniamo basiti dalla commedia che viene messa in atto per gli aumenti dei pedaggi autostradali. Avremmo piacere che la norma che in questo momento c'è fosse rispettata e soprattutto fosse, visto che questo è anche un governo che parla tanto di trasparenza, che in trasparenza facesse conoscere anche al 50% del proprio fatturato come viene applicata questa norma. Noi fondamentalmente non è che siamo contrari ai pedaggi. Laddove ci sono delle strade che non sono in sicurezza, dove ci vogliono degli interventi per metterle in sicurezza, mi riferisco anche alla E45 ad esempio, dove noi siamo convinti che portare un pedaggio possa portare un beneficio, soprattutto sicurezza per i cittadini, però deve essere adeguata alle norme europee. Quindi ci spaventiamo quando ci sono i pedaggi che non si devono dare, ma nel caso anche della Salerno-Reggio Calabria, laddove ci fossero i pedaggi e laddove i cittadini potessero e anche gli autocarri potessero viaggiare in sicurezza, se ne può parlare. A proposito di sicurezza, Armani, ci abbiamo messo tanti anni, ma questa sarà sicuramente una delle strade più sicure d'Italia. Sì, io ritengo è una strada bellissima da guidare. Porta in una strada bellissima, solo il presidente dell'ANAS potrebbe dirlo. No, io invito gli italiani, perché poi si fa molta mitologia su questo, invito gli italiani veramente a fare un'esperienza di guida e di visita ai luoghi che vengono attraversati da Salerno-Reggio Calabria. È una strada di montagna, l'autostrada più alta d'Europa, perché paradossalmente in Calabria arriva a 1050 metri, che però visita paesaggi bellissimi. Questo è vero. Io invito tutti quanti a guidarla, perché poi bisogna fare anche l'esperienza che l'Italia è in grado di fare grandissime infrastrutture, bellissime, e in questo caso anche accelerare i tempi di realizzazione. È un messaggio, il completamento della Salerno-Reggio Calabria, che è utile a tutto il paese. Dà un segnale che le cose si possono fare, basta organizzarsi, basta gestire con ordine le cose e effettivamente abbiamo la possibilità di uscire dalle secche della crisi anche nelle infrastrutture. Certo. Bagnoli, ovviamente la Salerno-Reggio Calabria è un'arteria fondamentale per il mondo dei trasporti, perché collega il centro e il sud Italia, un territorio che spesso sottovaluta il ruolo della logistica. Sì, tra l'altro sbagliando, perché comunque sono territori ancora ricchi dove l'agroalimentare ha assolutamente bisogno dell'autotrasporto su gomma, quindi il fare un'arteria così importante che sia percorribile in sicurezza, ma non solo per la sicurezza stradale, ma sicurezza per i carichi, sappiamo quali sono questi territori, insomma, che tipo di difficoltà hanno, dovrebbe riportare un pochettino alla luce il mondo dell'autotrasporto, che in quelle aree è un pochettino dimenticato, purtroppo. Armani, siamo in chiusura, un'ultima battuta, visto che stiamo parlando di autotrasporto, c'è un tema molto caro a questa categoria, che è quella delle aree di sosta, perché il mondo dell'autotrasporto ha dei tempi di guida e di riposo ben precisi. Anche sulle aree di sosta suppongo sia stato fatto un certo lavoro di perfezionamento e di miglioramento qualitativo. Sì, qua ovviamente la gestione delle concessioni nell'ambito pubblico richiede anche un ordine, un rigore nel rispetto degli standard necessari. Su questo noi stiamo facendo un'attività che non è stata fatta in passato, di verifica dell'effettivo qualità di servizi forniti dalle aree di sosta. Faremo degli interventi di manutenzione in sostituzione, in danno dei concessionari che non hanno fatto gli investimenti necessari, certo, nei bagni, nei servizi di sosta in generale, perché questo è quello che si meritano i nostri automobilisti, si meritano aree pulite, in cui si possa stare sereni, tranquilli e certi che il servizio sia di un certo livello. Bene, automobilisti e autotrasportatori, motociclisti, insomma tutti gli utenti della strada ovviamente. Termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.